257. Cibreo. Il cibreo è un intingolo semplice, ma delicato e gentile, opportuno alle signore di stomaco svogliato e ai convalescenti. Prendete fegatini, levando loro la vescichetta del fiele, come è indicato nel numero 110, creste e fagioli di pollo. Le creste spellatele con acqua bollente, tagliatele in due o tre pezzetti e i fegatini in due. Mettete al fuoco con burro in proporzione prima le creste, poi i fegatini e per ultimo i fagioli e condite con sale e pepe, poi brodo se occorre per tirare queste cose a cottura. A tenore della quantità, ponete in un pentolino un rosso o due d'uova con un cucchiaino o mezzo soltanto di farina, agro di limone e brodo bollente, frullando onde l'uovo non impazzisca. Versate questa salsa nelle rigaglie quando saranno cotte, fate bollire alquanto e aggiungete altro brodo se fa d'uopo per renderla più sciolta e servitelo. Per 3 o 4 creste, altrettanti fegatini e 6 o 7 fagioli, porzione sufficiente a una sola persona. Bastano un rosso d'uovo, mezzo cucchiaino di farina e mezzo limone. I granelli del numero 174, lessati e tagliati a filetti, riescono buoni anch'essi, cucinati in questa maniera.